Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. Buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, una trasmissione animalista, antispecista e vegan che legge le notizie attraverso il filtro dell'animalità. Siamo al fianco degli altri animali nel cammino verso la conquista dei diritti che spettano a tutti i viventi, in una prospettiva ecocentrica, mettendo quindi al centro non più una sola specie, non più solo la specie umana, che fino a oggi ha avuto diritto di vita e di morte su tutti gli altri viventi, ma ritenendo ogni singola vita degna di essere vissuta. Ogni vivente ci accompagna nel breve tragitto che ci è stato assegnato a bordo di questo piccolo pianeta. Nella puntata di questa settimana, che è la numero 704, parleremo di abbandoni, di tanti problemi legati al caldo nel mondo animale, in particolare degli abbandoni stradali, ma parleremo anche delle botticelle, cioè del fenomeno delle carrozzelle trainate dai cavalli nelle città d'arte, anche con temperature pericolose. Andiamo poi a Fasano, dove animali polari, orsi polari, devono vivere all'interno di uno zoo in Puglia con temperature che sfiorano i 50 gradi. E avviamo una nuova rubrica di buone letture che si intitolerà Conigli letterari. Non mancherà una ricetta vegana, cruelty free, proposta dal nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni, che sarà come sempre a tema, dedicata a uno dei temi trattati durante la trasmissione di oggi. Speriamo di avervi incuriosito. Con l'arrivo del caldo cresce come ogni anno il fenomeno degli abbandoni stradali. Secondo EMPA, nel 2023 sono stati ceduti o abbandonati più di 127 animali al giorno, con un aumento del 20% rispetto al 2021. Un dato che è ancora più preoccupante se incrociato con la generale diminuzione delle adozioni, meno 10%, e con quello della tipologia di adozioni. Infatti, nel 75% dei casi chi adotta vuole solo cuccioli. Intanto sono sempre di più gli italiani che hanno un animale d'affezione e che desiderano portarlo in vacanza, in spiaggia o farlo viaggiare anche in aereo. Quest'anno però, a differenza del passato, c'è chi nelle istituzioni ha deciso di punire in modo particolarmente severo chi commette questo gesto così inumano e crudele, specialmente abbandonando in strada animali che vengono quindi condannati a morte sicura, ma che mettono anche a rischio eventuali autisti, motociclisti e ciclisti. A mobilitarsi contro gli abbandoni stradali è il vice premier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, che punta a inserire le modifiche nel DDL sulla sicurezza stradale che arriverà in discussione in Parlamento, contro un fenomeno che cresce sempre di più e che ha i suoi picchi durante l'estate, quello appunto degli abbandoni stradali. Il ministro Salvini avrebbe intenzione di sospendere o revocare la patente di guida a chi viene sorpreso ad abbandonare un animale in strada. Questo in aggiunta alle pene già previste. Perché, spiega Salvini, oltre a essere un atto di assoluta barbarie e inciviltà, rischia di mettere a repentaglio l'incolumità di coloro che viaggiano. Su questi fronti il ministro quindi si è impegnato anche a sensibilizzare gli enti locali per garantire agli animali l'accesso alle spiagge e tavoli di lavoro con le compagnie aeree per superare alcune barriere che inibiscono il trasporto degli animali in aereo, soprattutto per quelli di taglie medio-grandi, per i quali è previsto il solo passaggio in stiva, come avviene sui treni. Noi non pensiamo che pene più severe possano inibire gli abbandoni. Chi abbandona in autostrada non lo fa perché non ha trovato una spiaggia o un hotel che accolga il suo cane, lo fa perché ha adottato con troppa leggerezza e della sorte di questo animale non gli importa niente. Se abbandonare in strada diventasse complicato, queste persone pensiamo che troverebbero altre modalità, per esempio legare il cane a un albero in un bosco, lontano dalle orecchie di tante persone, dove morirebbe di inedia. Il cambiamento quindi dovrebbe avvenire a partire dalle motivazioni. Gli animali non andrebbero venduti e per adottarli si dovrebbe venire sottoposti a una serie di controlli, esattamente come accade quando si adottano i bambini. I viventi non sono oggetti, siano essi umani o non umani, non possono diventare regali. Le mode e i capricci non sono motivazioni accettabili per una adozione. Un altro fenomeno tipicamente estivo e molto controverso sono le botticelle, ovvero le carrozzelle, quei mezzi di trasporto trainati da cavalli che fanno il giro delle città. L'ondata di caldo che sta colpendo l'Europa meridionale ha raggiunto dei limiti veramente emergenziali. In Sicilia la colonnina di mercurio ha toccato 46,7 gradi a Catania e gli incendi hanno ucciso e costretto all'evacuazione tantissime persone. Martedì scorso 16 città italiane sono state poste in stato di allerta per le temperature elevate. Tra queste città ci sono Palermo e Catania. In questa situazione drammatica, in Puglia, a Trani, nella mattinata di martedì 25 luglio, un cavallo è stramazzato al suolo in corso Vittorio Emanuele. L'animale, di colore bianco, era uno dei due cavalli guidati da un cocchiere, proprietario di una carrozza, utilizzata per delle cerimonie. Stava infatti andando a prendere gli sposi per un matrimonio. In Italia sono ormai poche decine i titolari di licenze di cocchiere, in città come Roma, Firenze, Palermo, Messina e Pisa. Tuttavia, le amministrazioni locali, senza un piano nazionale, non possono abolire queste carrozzelle. Questo fenomeno, che i vetturini propongono ai turisti per fare un giro panoramico, è un altro fenomeno che con il caldo ogni estate diventa campo conflittuale per qualsiasi persona minimamente sensibile al benessere degli animali. È un tema che divide da anni. Figuriamoci quest'estate così calda. Al centro della diatriba non solo c'è l'AFA e i suoi effetti sul cavallo e il lavoratore, ma anche l'idea stessa che è alla base di un'esperienza turistica di questo tipo. Anacronistica e superata per gli animalisti, mentre per i turisti americani è semplicemente amazing. L'OIPA, l'Organizzazione Internazionale Protezione Animali, ha lanciato un appello al ministro dei trasporti, Matteo Salvini, chiedendo veicoli a trazione elettrica al posto dei cavalli. Andiamo a Roma, dove si chiamano botticelle. A Roma le autorità locali hanno emesso un regolamento un po' più restrittivo in risposta alla richiesta delle associazioni a tutela degli animali. Fino al 15 settembre c'è quindi il divieto di far lavorare i cavalli dalle 11 alle 18 nelle giornate in cui la temperatura supera i 35 gradi. regole che però non vengono applicate anche per la scarsità di controlli da parte della pubblica amministrazione locale. L'Associazione dei Vetturini Romani si difende dalle accuse, sostiene che, a riprova della correttezza della loro categoria, non ci sono stati casi di cavalli morti per afa o stanchezza. E hanno aggiunto che la loro è una tradizione, un'attività storica che fa parte della città e che pertanto non si potrà mai vietare. In effetti, purtroppo, le botticelle continuano a piacere ai turisti. A Roma in particolare, a Piazza di Spagna, a Fontana dei Trevi, al Pantheon, c'è un gran ricambio di passeggeri. Per quanto il conto sia salato, perché costa 200 euro da dividere in 4 o al massimo in 5 persone. I passeggeri che entrano nella vettura per un giro che può variare da mezz'ora a 40 minuti, in base ai luoghi che si sceglie di visitare. C'è poi l'immancabile fotoricordo, scattata dal vetturino, sorridente, pronto a scendere anche per inquadrare i turisti in posa sulla botticella davanti alla fontana della barcaccia, ignari di essere seduti proprio sul pomo della discordia. Roma a Palermo, dove il gran caldo ha fatto divampare non solo tanti incendi, ma anche una guerra, la consueta guerra tra le associazioni animaliste, i vetturini e il comune, per le misure da adottare per i cavalli che tirano i cocchi per far fare il giro della città ai turisti. Il sindaco Roberto La Galla è sotto accusa perché le associazioni contestano le nuove disposizioni, con una interruzione troppo breve nelle ore più calde della giornata e con limiti di carico troppo alti. Non ci sono controlli e gli ignuri, sono chiamati così i conducenti delle carrozze a Palermo, non rispettano le regole. Dicono questo gli animalisti che hanno l'appoggio di alcuni consiglieri comunali, come Concetta Amella del Movimento 5 Stelle. Una volontaria che aveva interrotto la trattativa tra un vetturino e alcuni turisti, spiegando loro che non dovevano far lavorare il cavallo per il troppo caldo, è stata aggredita dal conducente della carrozza. L'uomo è sceso dalla sua carrozza, si è diretto verso l'auto della volontaria, l'ha presa a calci, ha tentato di aprire il finestrino e poi ha sputato. La donna ha chiamato la polizia municipale e ha denunciato il vetturino. Sempre a Palermo, volontari dell'associazione animalista ADA hanno chiamato i vigili urbani dopo aver filmato una carrozza trainata da un cavallo con 5 persone a bordo partita da Piazza San Domenico. C'erano 38 gradi e quindi il viaggio in carrozza violava l'ordinanza sindacale. Un ampio cartello di associazioni animaliste e ambientaliste contesta le misure e denuncia che ci sono pochi controlli, chiedendo tra l'altro di abbassare i gradi di temperatura da 37 a 30 per il fermo delle carrozze, oltre all'installazione di un GPS per poter effettuare dei controlli. La richiesta più forte comunque resta quella dell'abolizione delle carrozze con cavalli e lo spostamento delle licenze degli ignuri a mezzi diversi, cioè ape, calesse, motorizzati. Su questo punto la discussione è aperta. Easy, you'll think it's strange when I try to explain how I feel that I still need your love after all that I've done. You won't believe me, all you will see is a girl you once knew. She's dressed up to the nines at sixes and sevens with you. Per concludere questa carrellata andiamo in Basilicata, andiamo a Matera, dove a causa del caldo torrido di questi giorni il sindaco Domenico Bernardi ha emesso un'ordinanza che vieta la circolazione sul territorio comunale di calessi, carrozze e altri mezzi trainati da cavalli. Una misura ritenuta necessaria a tutela degli animali dopo la morte per collasso di 3 cavalli l'anno scorso, di cui uno proprio a Matera. Il divieto è vigente fino al 31 agosto, dalle 11 alle 18, e in ogni caso quando la temperatura atmosferica è pari o superiore ai 30 gradi, con breve deroghe possibili solo in caso di manifestazioni autorizzate dal comune. È una decisione che noi condividiamo nell'attesa che la tradizione si aggiorni e che mezzi elettrici silenziosi e sostenibili sostituiscano calessi e carrozzelle. Nelle ore calde i turisti comunque dovrebbero stare in relax, perché non fa bene né ai cavalli né agli umani andare in giro con questo caldo, e nelle ore fresche dovrebbero usare la forza motrice delle loro gambe. Se sono appesantite queste gambe, ci sono le biciclette. Il motto dovrebbe essere sempre lo stesso: vivi e lascia vivere. All kinds of everything. Parliamo ancora del caldo torrido, degli effetti di queste temperature sugli altri animali, gli altri viventi. In una nota l'Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente, AIDA, annuncia una denuncia contro i gestori dello zoo di Fasano, in provincia di Brindisi, per il reato di maltrattamento di animali, in particolare degli orsi polari, per le condizioni climatiche inadatte. Che cosa ci fanno in effetti due orsi polari in uno zoo della Puglia? Il pensiero va a Marissa e sua figlia, due orse polari rinchiuse nello zoo safari di Fasano. Come dice il nome stesso, gli orsi polari hanno bisogno di temperature polari. Distruggere il loro habitat o costringerli a vivere lontano da questo è un vero e proprio scempio. Rinchiuse in un'area di cemento, tinta di azzurro, con qualche roccia qua e là, che dovrebbe molto vagamente ricordare il Polo Nord o l'Alaska e le regioni artiche, questi grandi predatori vivono una vita tremenda, una vita noiosissima, sono nate in cattività, sono detenute sotto un sole cocente fino alla fine dei loro giorni. È una cosa intollerabile. In queste settimane le colonnine di mercurio in quella della Puglia hanno sfiorato i 50 gradi centigradi e ci sono dei video che mostrano la disperazione di questi animali. Ve ne avevamo già parlato qualche anno fa, continueremo a parlarne. Oggi come allora le temperature sono roventi e la situazione si aggrava ogni anno di più, evidentemente. C'è una petizione dell'associazione Meta Parma per la liberazione di queste due orse, perché vengano rilasciate in un habitat più adatto alla loro specie, e ha superato le 55.000 firme. L'associazione animalista in un comunicato si augura che queste orse non debbano morire lì, a Fasano, come è già successo ad Arturo, l'orso polare definito più triste del mondo, che morì solo, di caldo, nello zoo di Mendoza, in Argentina. Per liberare Arturo si mosse tutta l'opinione pubblica, ma lo zoo non volle liberarlo e l'orso morì nella sua prigione bollente. Noi ci auguriamo che le cose vadano diversamente per Marissa e per sua figlia. L'estate ed è tempo di buone letture. Come ogni anno noi proviamo a dare qualche consiglio nella speranza di aiutare a nutrire la conoscenza e l'empatia per le altre animalità, perché vogliamo far crescere il desiderio di cambiare l'ordine delle cose nella direzione di una maggiore giustizia fra le specie e anche all'interno della nostra stessa specie, nella convinzione che i due elementi siano collegati uno all'altro e si alimentino a vicenda. Abbiamo pensato a un ciclo e potevamo chiamarlo letture consigliate o consigli letterari, e invece abbiamo deciso di chiamarlo conigli letterari. Essendo animalisti, ovviamente, affideremo i nostri conigli solo a individui speciali, di cui ci fidiamo moltissimo. Si tratterà quindi di amici dell'antispecismo e di amici di questa trasmissione. Oggi i conigli letterari sono a cura di Lella e Fabio, i Troglodita Tribe. La signora Meyer e il Merlo di Wolf Herbrook, edizioni EO, pagine 64, euro 9. I disegni di questa incantevole fiaba ci consentono di conoscere la signora Meyer, che non sorride mai perché è sempre preoccupata per non aver messo abbastanza zucchero nella torta, per il bottone del cappotto che sta per staccarsi, per l'ansia che un giorno forse un aereo potrebbe cadere nell'orto e rovinargli i magnifici pomodori, il prezzemolo, le patate. Una mattina, però, proprio nell'orto, trova un piccolo e nudo merlo che pigola disperato. La signora Meyer, preoccupatissima, lo raccoglie e decide di prendersene cura, ma anche di insegnargli a volare. Al piccolo, che prenderà il nome di Cipino, giorno dopo giorno crescono le piume e impara a zampettare, mentre per la signora Meyer inizia una nuova vita avventurosa. Dovrà salire sugli alberi e mostrare a Cipino come si vola. Dimenticherà così le sue preoccupazioni e imparerà a sorridere come non aveva mai fatto. Volando nel cielo con Cipino, quasi senza accorgersene, riuscirà a liberarsi dalle sue ansie. Una favola che, anche grazie ai disegni, si fa surreale e ironica e quindi adatta sia agli adulti che ai bambini, soprattutto a chi si prende cura dei tanti piccoli animali in difficoltà, a chi non riesce a voltare lo sguardo dall'altra parte perché ha a cuore la vita e si impegna per proteggerla. Perché, come sanno bene gli attivisti e le attiviste di ogni luogo e di ogni tempo, aiutare un animale significa sempre e comunque aiutare anche se stessi. Un gatto non è un cuscino, di Christine Nostlinger, edizioni PM, pagine 181, euro 9. Un libretto adatto anche ai più piccoli, a partire dai 7 anni, che racconta la storia di un gattino e dei suoi tanti nomi. Dopo essere stato separato dalla mamma, dai fratellini e dalle sorelline, vivrà con svariate famiglie umane che, appunto, gli affibbieranno nomi, abitudini, ritmi, regole, pappe differenti. Soprattutto lo metteranno nelle condizioni di dover rispondere alle richieste affettuose, ma stressanti, di chi lo vuole obbediente e docile. Alla fine, dopo mille disavventure con gli umani più diversi, il nostro gatto scopre finalmente la libertà e decide di non accettare più nessun nome, di non rispondere più a niente e a nessuno. Un libro dalle delicate sfumature antispeciste che consigliamo caldamente a tutti i bambini e a tutte le bambine che desiderano vivere con i gatti. Sarà utilissimo per capire e comprendere sin dall'inizio che l'amore nei loro confronti non si deve confondere con il possesso. Christine Nostlinger, infatti, con una storia divertente che si legge piacevolmente fino alla fine, riesce a farci comprendere e sentire nel profondo che tutti i gatti, proprio come noi, provano paura, tristezza, gioia e curiosità, e che occorre quindi prestare molta attenzione per non trasformarli in giocattoli o in esseri inanimati e privi di bisogni ed emozioni. L'autrice, che ha vinto diversi premi prestigiosi, è nota per il suo approccio anticonformista che rompe con gli stereotipi per affrontare il difficile rapporto tra adulti e ragazzi. Un gatto non è un cuscino, che contiene anche le illustrazioni in bianco e nero di Chiara Carrère, è dunque un piccolo libro prezioso da non perdere. We have done everything we can in the blood of Eden. So we end as we began, with the man and the woman, and the woman and the man. It was all for the union. Questa settimana abbiamo chiesto al nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni una ricetta vegana per una convivialità senza crudeltà. La ricetta della settimana è dedicata a Palermo. città siciliana vittima di incendi e siccità, dove per giunta i cavalli non vengono adeguatamente tutelati e protetti. Sentiamo la proposta del nostro chef. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Palermo è una bellissima città, ma visitatela a piedi o in bicicletta e lasciate in pace sti poveri cavalli. E invece di fare la guerra, fatevi una bella cotoletta palermitana in questa estiva versione cruelty free. Ingredienti per 4 persone per la cotoletta alla palermitana sono 2 melanzane, 150 g di pan grattato, 50 g di farina di ceci, un cucchiaio di lievito alimentare, un ciuffetto di menta, un ciuffetto di prezzemolo, un cucchiaino di sale grosso, la scorza di un limone grattugiata, sale e pepe nero, olio extravergine di oliva. Sbucciate le melanzane e tagliatele a fette verticali piuttosto spesse, più o meno un paio di centimetri. Mettetele in un colino e cospargete di sale grosso e lasciate spurgare l'acqua di vegetazione per un'oretta o due. Nel frattempo tritate finemente il prezzemolo e la menta e uniteli al pan grattato assieme al lievito alimentare e al sale e pepe. Recuperate le melanzane e sciacquatele dal sale. Tamponate con un panno e con i rebbi di una forchetta, incidete leggermente ogni fetta, in pratica le dovete graffiare. Stemperate la farina di ceci con un po' di acqua, un goccio di olio e sale, fino ad ottenere una pastella abbastanza liquida. Passate le fette di melanzana nella pastella e successivamente nel pan grattato aromatizzato. Adagiate ogni fetta in una placca con carta forno che avrete spennellato con olio extravergine. Passate un filo d'olio su ogni cotoletta di melanzana e infornate a 180 gradi in modalità ventilata per circa 15 minuti. Appena pronte, servite calde con la scorza di limone grattugiata. Gabriele Palloni è autore di alcuni libri di cucina, l'ultimo edito da Newton Compton. Si intitola Se vuoi vivere sano, cucina vegano. Now we know what we both need to know. When all of our dreams are convincingly real, reality stays the same. It's all up in arms, and some things will never change. Non dimenticate gli altri animali quando compilate la vostra denuncia dei redditi. A voi non costa niente donare il 5 per 1000 a una realtà che si occupa di loro, ma per loro può fare la differenza. Noi consigliamo Vita da Cani, Lipu, LAV, il centro della Ninna specializzato sui ricci, il centro Liberi di Volare di Trieste specializzato in rondoni, il parco dell'Abatino in provincia di Rieti, l'associazione Essere Animali e poi i Poasi, ma anche AgriPunk. E stiamo lasciando indietro molte altre realtà semplicemente perché tutte non riusciamo a menzionarle. Sulla nostra pagina metteremo un post con una lista più completa. Per questa puntata è tutto, vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana. La nostra redazione è composta da Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masala, Roberta Marino, Francesco Panier, Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 705 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.